Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Se questo è Mebius, dovrebbe esserci qui. Eccoti qua. Eccoci qua. Chiara. Ciao Federico, benvenuti a tutti. Allora, da che cosa partiamo? Oh, partiamo dalla notizia della settimana. Siamo stati tutti col naso all'insù per ore e giorni, e quindi tiriamo un po' le fila di quella che è stata la missione, di quella che è la missione ExoMars. Schiaparelli, dove sei finito? E poi Fabbrica 4.0, ma c'è una via italiana alla 4.0? E poi vi avevamo anticipato che eravamo media partner di Futuro Remoto, la manifestazione che compiva 30 anni a Napoli. Ecco, Federico, tu sei stato lì, quindi ci racconti che cosa hai visto, in particolare una centralina. Super aspiratore di polveri sottili. Oh, bene, partiamo. Via. Lo abbiamo detto nei titoli, la notizia ovviamente non ha forse bisogno di ulteriori introduzioni perché è la notizia scientifica della settimana. Stiamo parlando della missione ExoMars e in particolare del lander Schiaparelli, che insomma siamo ancora in attesa di capire bene quali saranno le sue sorti. Vogliamo fare un po' il punto della situazione con Roberto Battiston, presidente dell'ASI. Benvenuto, ben trovato qui a Mebius. Buonasera. Battiston, abbiamo una domanda precisa. Allora, di questo lungo viaggio, che è milioni di chilometri fino a 100 metri da Marte, e tutte le procedure, tutte le fasi, soprattutto anche quelle dell'entrata in orbita intorno a Marte e dell'arrivo della Schiaparelli vicino a Terra, sono andate tutte lisce e avete anche tutti i dati. Adesso esatto. Quello che ci si chiede è questo, e cioè il fatto che ci sia stato un ritardo finale in questi razzi che si sono accesi ma dovevano durare un po' di più della sonda in modo che potesse appoggiarsi tranquillamente al suolo. Va bene, è andato tutto liscio con questo ritardo. Voi pensate che questo sia sufficiente per operare poi in futuro, oppure questo dato qui finale è un po' inquietante perché c'è il rischio che quando si rifà la cosa si ripeta? Quello che è successo alla fine di una serie di eventi complicati, difficili ad altissimo rischio. La parte finale con i retrorazzi, in cui si doveva rallentare dalla velocità del paracadute, che era di circa 200 km l'ora, quindi diciamo la velocità di una macchina di alta velocità, a pochi chilometri l'ora, che è la velocità con cui noi camminiamo, 5-10 km l'ora, era di gran lunga la parte più facile, perché diciamo questo tipo di retrorazzi che sospengono e rallentano una sonda sono stati usati in più occasioni. Certamente non si tratta di condizioni estreme, si tratta di situazioni relativamente normali. Certo, su un pianeta lontano, dopo 7 mesi di viaggio, un passaggio alla super velocità in un'atmosfera incandescente, però diciamo alla fine era veramente l'ultima fase, di gran lunga la più facile. Quindi di conseguenza che cosa vuol dire? Intanto capiremo che cosa è successo, siamo in attesa della nota dell'ESA che darà in modo dettagliato conoscenza precisa di cosa è successo in quegli ultimi secondi, quando ormai la superficie era vicina. Era lì. Appunto, lei ci conferma che era l'ultimo chilometro, mancavano 50 secondi, una cosa così. Si sta parlando di una decina, di qualche decina di secondi, stiamo parlando degli ultimi centinaia di metri. Okay. Dettaglio, aspettiamo che ce lo dica l'ESA, okay. Non posso inventarmelo, ma siamo veramente a un passo dal. Ma conseguentemente, quanto appena detto, i dati che abbiamo raccolto nella sequenza ad altissimo rischio, che era l'ingresso in atmosfera incandescente, liberarsi del pannello protettivo termico, aprire il paracadute a due volte la velocità del suono, Mach 2, una cosa che non si è mai fatta sulla Terra, invece lì è riuscita, sembra, in modo ottimale, e perfino l'accensione dei retrorazzi, per il periodo che hanno funzionato, sono avvenuti in modo che io sappia, sulla base di dati e risultati, corretto. I dati sono a disposizione, tutti i sensori hanno dato le informazioni utili e necessarie per gli scienziati, per i tecnici dell'ESA, per capire che le cose procedevano in modo corretto. L'ultima fase, evidentemente, qualcosa non ha funzionato regolarmente, forse un computer, forse un sensore, questo ce lo dirà l'ESA sulla base del dato raccolto. Sottolineo come, siccome la parte difficile della missione ha avuto successo, il fatto di avere perso, diciamo, la parte finale, tutto sommato, rappresenta una perdita limitata rispetto al guadagno di informazioni che abbiamo raccolto nei minuti precedenti. Cioè, lei dice sarebbe stato peggio il contrario, la parte più critica è andata molto bene, ha avuto successo, quella che a noi sembrava più semplice dal punto di vista tecnico invece però non inficia sul risultato. Forse c'è stata una certa enfasi su Schiaparelli che probabilmente adesso crea un po' di sbandamento. Ma diciamo, è chiaro che per il grande pubblico l'idea di arrivare su Marte, addirittura pensavano alcuni che Schiaparelli avesse le ruote e potesse muoversi. No, non era un rover, ecco. Non sì, era sì. Un rover. E Schiaparelli era chiamato anche EDM, Entry and Descent Module, cioè sottolineando che l'obiettivo è un test di ingresso ad altissima velocità nell'atmosfera marziana, e ha funzionato. Superato. Discendere fino alla superficie, e ha funzionato. E l'ultima fase, abbiamo detto, qualche cosa non ha funzionato, non sappiamo ancora bene che cosa, ma ripeto, l'obiettivo principale è stato raggiunto. Insomma, come dire che era un film che c'è tutto, ma non è che manca l'ultima scena, è finito prima, diciamo. È finito prima dell'ultima scena. La parte romantica, diciamo, è venuta forse un po' meno, ma la parte tecnico-scientifica mi risulta che sia estremamente valida. Ok, voi siete soddisfatti, insomma. Ecco. E noi consideriamo una missione che ha avuto successo per gli obiettivi che ci eravamo dati. L'orbiter è lo strumento principale che permette a questa missione e alla successiva di poter essere fatte. Se avessimo avuto un problema sull'orbiter non staremmo neanche a discutere del successo di Schiaparelli. Pensatela in questo modo: supponiamo che Schiaparelli sia atterrato dolcemente, ma che l'orbiter non sia entrato in orbita marziana. Sarebbe che stato un disastro. Certo, sarebbe tutto. Un'impressione che il grande pubblico siamo su Marte, ma avremmo dovuto interrompere la missione del 2020, che è quella che cerca la vita. Quindi sarebbe stato un disastro assoluto. E quindi rapidissimo, in conclusione, quella del 2020, diciamo, il rover che dovrà andare, la trivella, insomma, lo strumento italiano che dovrà fare questa perforazione molto profonda per la prima volta, non viene toccata. Sarà oggetto di discussione ai primi di novembre e poi soprattutto a dicembre nella ministeriale, questa riunione in cui i ministri dei vari paesi si danno intorno a un tavolo per decidere cosa fare negli anni a seguire col finanziamento dato all'ESA. Ok, ok, quindi in dobbiamo aspettare ancora un po'. Si faranno queste analisi politiche, tecniche e scientifiche. Ok, dobbiamo attendere ancora un po'. Va bene, grazie mille Battistone. Prego, allora buon lavoro a tutti voi. Buon lavoro. Grazie. Ecco, questo era il punto di vista scientifico, sì, istituzionale del presidente dell'ASI. Adesso però facciamo un po' di commento. Sentiamo Giovanni Bignami, astronomo, membro dell'Accademia dei Lincei, ma uno che ha diretto diverse imprese spaziali. Bignami, buonasera. Le chiediamo, la possibilità di recuperare un funzionamento di Schiaparelli esiste oppure la lasciamo perdere? Non lo so ancora, credo non lo sappia ancora nessuno. Temo che non sia facile, ma in un certo senso non è la cosa più importante da dire sulla missione ExoMars. Da ricentro la missione ExoMars era la parte orbitale, che invece sta andando benissimo. Ricordiamo a tutti che l'Europa a questo punto ha due oggetti in orbita intorno a Marte, dopo Mars Express, che è felicemente lì dal 2003. Schiaparelli ha fatto bene il suo mestiere fino a quasi alla fine. E la sfiga tremenda ha voluto che dopo 500 milioni di chilometri, mica pizza e fichi, 500 milioni di chilometri, probabilmente sia successo qualcosa di sbagliato negli ultimi metri, per cui con termine molto tecnico, come si dice a Milano, si sarebbe spettasciato sul suolo di Marte. Diciamo che per la sua ampissima esperienza si potrebbe quasi dire così, insomma. Non è stato ancora definito, però il fatto che lui non mandi nessun tipo di segnale, che si sia perso il segnale a pochi, insomma, metri dal suolo di Marte, ci fa pensare male. Sì, la spiegazione più logica è che i retrorazzi si siano spenti poco prima. Cerchiamo di non dare enfasi al fallimento, certo. Ecco, soltanto questo aspetto, perché durante tutti i sei minuti, quasi tutti i sei minuti della discesa, la sonda eroicamente ha mandato giù tutti i dati che ci interessavano, cioè lo distacco dello scudo termico, l'apertura del paracadute, l'accensione dei retroradi, tutto questo. questo è stato ha funzionato, sì. E poi insomma questa sonda, diciamolo, non avrebbe poi fatto un granché. No, la prova è che era senza pannelli solari, quindi funzionava su delle batterie che per quanto sia sono limitate e quindi avrebbe potuto funzionare soltanto per al massimo qualche ora, qualche giorno. Ma concentriamoci sul risultato dell'orbita. Sul successo, chiaramente. Certo. Grazie Bignani, grazie. Buon lavoro. Grazie. E invece, non in orbita ma sulle nostre strade, sentiamo il traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Lunedì, quindi fra un giorno, a Milano, il 24 per l'esattezza, si parla di 4.0, fabbrica 4.0, in un appuntamento piuttosto importante. Sentiremo anche voci del governo per parlare di questo appuntamento. È qua con noi questa sera Fabio Terragni. Buonasera Terragni. Buonasera a voi ascoltatori. Buonasera. Presidente di COFAB, che è una struttura con svolge funzioni di incubazione e anche di co-working molto grossa qui nella città di Milano. Allora Terragni, il tema 4.0, fabbrica 4.0 è uno dei temi che maggiormente hanno a che vedere con i processi di globalizzazione, nel senso che la produzione, il cambiamento della produzione, soprattutto nei paesi più avanzati, è qualcosa che si distende, diciamo, a livello planetario, e quindi ci saranno degli standard che dovranno valere per tutti. Però, come in altri processi tecnologici che riguardano l'innovazione, si vede poi che emergono anche delle specificità locali di paese. Per esempio, ecco, se si pensa di fare concorrenza alla Cina in termini di quantità, è meglio lasciar perdere. La carta da giocare, per esempio, in Europa e anche nel nostro paese è quella della qualità dei prodotti. E a questo proposito volevamo capire dal punto di vista italiano se la fabbrica 4.0 italiana ha delle sue specificità, e di questo parlerete anche all'incontro. Ma io ritengo sostanzialmente di sì, nel senso che l'industria 4.0, tanto per farci capire bene degli ascoltatori, vuol dire in estrema sintesi l'applicazione delle nuove tecnologie digitali alla manifattura. Ovviamente la manifattura italiana è una manifattura molto diversa da quella cinese che veniva citata, ma anche da quella americana, ma anche da quella tedesca. Io ricordo una volta in Giappone mi confrontavo con un ex presidente della Sony e lui parlava con meraviglia della capacità italiana di produrre degli oggetti ogni volta diversi, ogni volta con una loro caratteristica unica, mentre in Asia, Giappone, ma a maggior ragione Cina, l'obiettivo è quello di produrre milioni di pezzi tutti uguali. Allora, l'applicazione delle tecnologie digitali alla manifattura italiana può voler dire proprio questo, cioè l'enfatizzazione, la competitività delle specificità tutte italiane di saper fare di ogni oggetto un oggetto unico. Quindi quella che viene chiamata, con un termine un po', diciamo, abusato e distorto, customizzazione, cioè il tailor made, il fatto su misura, anche se fatto con tecnologie industriali e con tecnologie digitali. Ci sono già molti esempi che vanno in questa direzione. Io ho avuto modo di vedere un produttore italiano di camicie che utilizza le tecnologie digitali per rilevare a distanza le misure della persona che si vuole far fare le camicie, vuol dire a distanza, vuol dire in tutto il mondo, e gli fa le camicie su misura automaticamente. In Italia, pezzi unici. Italia. Siamo a metà strada. A metà strada tra quello che si chiama artigianato 2.0, cioè proprio l'applicazione delle tecnologie digitali all'artigianato, e la manifattura. Okay. L'artigianato 2.0 permette di produrre, non so, biciclette certo, che costano magari 10.000 euro, uniche, straordinarie. Magari la manifattura 4.0 può permettere di produrre biciclette quasi simili, vicine, ma che magari costano 1.000-1.500 euro, siano accessibili e non siano pezzi unici, certo, siano customizzate ma prodotte su scala industriale. Terragni, ci ricorda l'appuntamento dove sarà e mi pare che ci sia appunto anche una presenza di Nannicini del governo. Sì, sarà presente il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Tommaso Nannicini, che è un professore della Bocconi che ha molto seguito gli aspetti legati all'ultimo DPF, le misure di politica economica, che comprendono un set importante di misure di incentivazione all'industria per l'investimento nelle nuove tecnologie digitali. Allora, ricordiamo però, lunedì 24 ottobre, dove? Sesto San Giovanni, è uno spazio che si chiama MIL, Museo dell'Industria e del Lavoro. Siamo nel cuore di quella che una volta era l'industria manifatturiera, in particolare c'era la Breda in questo posto qui, dalle 17.30 in avanti di lunedì 24 si può guardare il sito di Cofab, www.cofab.it. Perfetto. Benissimo. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, a presto. Futuro remoto a Napoli, un paio di settimane fa Moebius era stato invitato, era media partners di questo appuntamento che è arrivato alla 30ª edizione, che è stato un po' l'antesignano di tutti i festival della scienza, che poi... Già, questa è una bellissima notizia. Questa è una bellissima notizia, che noi eravamo lì. Che noi eravamo lì e che fossero alla 30ª edizione, che va avanti da 30 anni. Da 30 anni e nell'ultima questa ci sono stati più di 130-140.000 visitatori. Futuro Remoto è organizzato dalla Città della Scienza, altra realtà molto radicata nel tempo nell'area del meridione, non solo di Napoli. E infatti incominciamo da qui. Abbiamo intervistato Vincenzo Lipardi, che è il consigliere delegato della Città della Scienza, che ci ha detto brevemente alcune cose su quella che è la mission di questa struttura nell'organizzare eventi come Futuro Remoto, ma nel fare anche molto di più. Sentiamo Lipardi. Noi abbiamo fatto un'operazione di social innovation. Che significa? Abbiamo messo a sistema le 7 università della Campania più le università romane, circa 500-300 di ricerca, associazioni, insomma la parte innovativa del Mezzogiorno. Perché l'abbiamo fatto? Perché l'Italia ha bisogno in qualche modo di mostrarsi e mostrare al mondo che noi abbiamo tanti problemi, ma siamo anche, come dire, innovazione, tecnologia, cultura, capacità di lavoro. Sembrano slogan, ma non lo sono. In un mondo globalizzato e competitivo questo è un aspetto fondamentale. Se noi non ricostruiamo appunto un tessuto industriale di tipo nuovo, la manifattura 4.0 ci dà questa possibilità, e se non siamo capaci di internazionalizzare, insomma, poi diventiamo un paese che insomma sta sulla crescita 0,7-0,4 per fisso telefonico, ma non andiamo avanti. Poi c'è il fatto che l'Italia è un paese piccolo, se noi ragioniamo rispetto ai grandi competitor a livello internazionale ci rendiamo conto che siamo piccoli e che non riusciamo ancora, e non soltanto per nostra colpa, ad essere europei. Il racconto che noi vorremmo fare di questa nostra Italia, dico in sintesi, è un paese che non si nasconde i problemi, che prende atto che senza una grande pagina di nuova alfabetizzazione scientifica e culturale, e senza anche, come dire, un piano industriale, perché di questo parliamo, il paese ha difficoltà a muoversi. Per far questo c'è bisogno di consapevolezza, di fare rete, di fare delle eccellenze, come ripeto, il treno che parte, la locomotiva, senza mai dimenticare che un paese funziona se è coeso, ed è coeso appunto se riscopre la foglia e la forza di stare assieme. Ho visto, guarda, non è più grande di un armadio, anzi è più piccolo. E che cos'era? Che cos'era? È una centralina, ma però non bisogna dire così perché potrebbe essere riduttivo, ed è qualcosa che a me sembra prodigioso e mi sembra anche strano che non ci si sia arrivati prima. Comunque il costruttore di questo oggetto, che è Giuseppe Spanto, è qui con noi questa sera. Buonasera Spanto. Buonasera. Buonasera. Lei è CEO di Istec. Lì a Futuro Remoto abbiamo visto questa macchina, ok? Che è anche una centralina. Sì, perché... poi magari se ci dà anche le dimensioni, così capiamo. Esatto, ecco. Esatto. Che serve a ripulire l'aria. Vogliamo descrivere un po' questa cosa? A disinquinare? A disinquinare, esattamente. Come funziona? Si tratta nel caso specifico di un totem che porta il nome della tecnologia, per l'esattezza APA Totem. APA è il nome della tecnologia, quindi Air Pollution Abatement Totem, un totem multimediale, un pannello, una struttura come quelle che a decine, a centinaia sono distribuite e diffuse nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni metropolitane di tutte le città d'Italia e del mondo. Chiaramente le altre non hanno il sistema di purificazione dell'aria. Questo sistema dunque è un aspirapolveri sottili intelligenti, dotato anche della struttura di centralina, come si diceva, quindi per misura, monitora, controlla la qualità dell'aria e dati i parametri ambientali tutto attorno nell'area, nell'area. Ma quello è il meno. Quindi è quello, il meno, diciamo, esatto. Di aspetto noi ce lo immaginiamo come un totem informativo che troviamo nelle stazioni. Ok, perfetto. E cosa fa? Aspira da una parte dietro. C'è proprio una funzione aspirante dell'aria con dentro tutte le polveri sottili, ma dove vanno a finire? Perché quelle lì bisogna riuscire a scioglierle certo. In qualche modo. Sì, l'altro aspetto prodigioso di questa innovazione è che usa semplicemente acqua, oltre al processo fisico-meccanico, che sarebbe una sorta di centrifugazione, una sorta di nebulizzazione per intenderci. Quindi aspira, il sistema aspira, centrifuga e nebulizza, usa solo acqua, l'acqua lava l'aria, gli inquinanti precipitano in questa struttura, nel caso APA Totem, precipitano in acqua, in altra acqua, cioè l'acqua che gira vorticosamente nella centrifuga è l'acqua di deposito, gli inquinanti si aggiungono all'acqua e diventa una sorta di acqua sporca, diciamo così, no? come l'acqua delle pozzanghere. Che viene smaltita nelle fognature, cioè nel sistema idrico normale? Corretto, noi diciamo anche un po' scherzosamente, riproduce il ciclo naturale della pioggia, cioè smart rain for smart cities, no? Quindi ecco, c'è riprodotto il ciclo naturale di quando piove, perché appunto la pioggia batte ed elimina. Tanto, allora ci dà un'idea di quanto può purificare questa centralina? Facciamo degli esempi, un open space, non so, di 1000 metri quadri, quante centraline ci vorrebbero? È molto energivora questa centralina, insomma, ci racconti un po' le caratteristiche tecniche. Allora, il sistema è molto efficace e molto efficiente, ha limitati consumi energetici. Siamo a circa un terzo di un ferro da stiro, di un asciugacapelli per intenderci. Niente. Una fortissima capacità di aspirazione, siamo a circa 3000 metri cubi ora di capacità di purificazione e rumorosità molto limitata, 38-40 decibel a un metro, quindi meno di un condizionatore d'aria, sempre per intenderci. Io ho anche una curiosità, si potrebbe vedere applicato anche all'esterno dove appunto la concentrazione delle polveri sottili è davvero elevata? Con gli stessi principi la risposta è sì, perché praticamente sono molto simili agli spazi indoor. Chiaramente ci sono delle caratterizzazioni diverse che derivano dal traffico veicolare o dagli eventi atmosferici all'esterno. Sì, potremmo pensarle, non so, installate vicino alle pensiline degli autobus, ai semafori, si potrebbe pensare o è un po' troppo esagerato e costoso? No, non solo si può pensare, noi abbiamo brevettato un modello d'utilità, proprio pensilina. La pensilina ha un totem come lato, come parte schienale, per intenderci. Quindi la risposta è ancora una volta affermativa, tant'è che c'è proprio un'invenzione registrata come brevetto per modello d'utilità. Ah, ok, va bene. Nei paesi arabi hanno brevettato una pensilina con i sistemi di condizionamento, perché fa troppo caldo, quando si attende l'autobus c'è bisogno dell'aria fresca. E noi pensiamo che nelle aree urbane molto inquinate c'è bisogno di purificare. Certo. Bene, grande invenzione, sta per arrivare, insomma, speriamo che abbia un grosso successo. Buon lavoro, Spanto. Grazie a voi, grazie per l'attenzione e buonasera a tutti. Buonasera.